amore sotto la luna. Come te vai in cave di I love you. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Tano, tano, tano, tano, tano, tano, tano, tano. Si tu la parla mi è già americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, con la trena in cave di I love you. Papà l'americano.